vedi? Se soffi, non suona. Ma cosa suona? È un ukulele. E appunto. Ho visto un film su Hawaii ultimamente. Vabbè. Siamo tutti con l'ukulele. Vedi? Tutti a fare. Nei bar praticamente ci sono sempre tre indigeni sottopagati che suonano l'ukulele. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo asilo, un salto da cappa e un salto da drago. Perché? Perché oggi saltiamo invece di salutare. Scusa. Perché era un refuso. Bentornati a Chiedo asilo. È un altro refuso, dai. No, no, tecnicamente la U accentata non so se è un refuso. Come? Perché è il risultato di un errore di digitazione. Mm-hmm. No? Visto, sì, che il tasto della U accentata, come vedi, sta proprio vicino a quello dell'invio o enter. Allora è un refuso, scusa. No, no, è un, direi che è un relitto, Ma come un relitto? Perché è un pezzo di testo dimenticato lì, capito? Doveva essere gettato via, invece è rimasto lì senza motivo. Quindi? Quindi da capo, dai. Bentornati a Chiedo asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Shhh, hai sentito? Cosa? Una voce, shhh. Ero io, era la mia voce. No, non la tua, ho sentito un'altra voce, Drago, che parlava. Ma quando? Adesso, prima, non so, una voce di donna. Kappa, sei sicuro di sentirti bene? Shhh, ecco, di nuovo. Di nuovo? Sì. Scusa, le voci va bene se le senti da bambino, da adulto, no? Cioè, non è una cosa... Intanto chi l'ha detto che sono adulto? L'anagrafe l'ha detto. Se tu fossi un bambino, tutto normale. 4 bambini su 10 sentono delle voci non così. Perché mi dai del pazzo, scusa? Perché se il fenomeno persiste, rivolgersi a uno psichiatra. Psst! Ma che cosa dice sta voce? Ma dice una cosa tipo... E ora, bambini, ricreazione! Vabbè, Kappa, scusa, la voce di Suor Dentona la sento anch'io. Sì. Vabbè, per forza, come fai a non sentirla? Bambino Alberto, tu adesso mi vieni in soccorso perché anche tu, lo so, senti le voci. Sì. Vero? Sente Gildo, scusa. Lui sì. Allora, questa storia deve finire, Io sento la voce di Gildo quando Gildo parla. Poi Gildo lo vedo, no? Quando sta zitto non la sento. Invece ci sono voci che sento, che sono solo voci, cioè, capito? Invece Gildo... sono voci di persone ignote... che mi dicono delle cose, ignote, no? Delle frasi. Frasi comprensibili, di senso compiuto. Sì, ma è la stessa cosa che succede a me. Ma le tue voci cosa dicono? Ma non so, cioè, mi dicono di fare delle cose, no? Mm. E io devo ubbidire. Devo ubbidire per forza. Ah, ho capito, perché sono come ipnotizzato. Vabbè, ci prende in giro, ipnotizzato addirittura, Costantinopoli. Mondiale. Ti dico Cassandra e tu devi fare delle cose. Chiamo... No, vabbè, ma lascia perdere Cassandra, Kappa, dai. Volete degli esempi? Sì. Allora, una volta mi hanno detto: "Ehi, bambino Alberto, ti fermi come ipnotizzato. Oggi devi mangiare 1 chilo di lamponi. Vabbè, certo. E freschi, Allora, esci di casa, vai dal fruttivendolo all'angolo. Il ladro, però il ladro. E compri 1 chilo di lamponi. Vabbè, dai, ma siamo le solite cose, no, attenzione, posso anche fare delle domande, non è che ascolto e basta, posso interagire. Allora, nel caso dei lamponi, che costano come l'oro, appunto, gli ho chiesto, ma come faccio per i soldi? Te l'ho chiesto anch'io. E parlo così come se fosse lontano, perché lui o lei, perché ecco, non distingui maschio da femmina. Ah, no. No, è una cosa, Allora, vai in cucina, lì nel barattolo rosso-nero ci sono 50 euro. Quelli di riserva. Questa è la voce. Quelli dell'emergenza. This is the voice talking now. Ho capito. Sì, infatti. Però, scusa, Alberto, questa voce tua non è come le mie. Ah, no, la tua è come sua. No, perché le mie sono. Parlano più... in lingue aramaiche, strane. Ma non è che ti danno i comandi, fai questo, fai quello, i consigli. Cioè, i consigli è una roba del genio della lampada. Sì, poi su dove trovare i soldi nascosti dai genitori, diciamo che. Cioè, secondo me, Alberto, è più facile che sei tu che ti dici tutte queste cose da solo e ti convinci che sono delle voci, perché tu lo sai benissimo che 50 euro sono nel barattolo rosso nero. E come no? No. Guardate che mi fanno anche fare cose spiacevoli, Vabbè, allora se ci fa fare delle cose spiacevoli non può essere come dici tu, no, Kappa, come dico io anche. Infatti. Fai un esempio, allora, cioè, spiacevole. La settimana scorsa, sì, una voce mi ha detto di andare a comprare 10 kg di cemento a presa rapida e una cazzuola. Vabbè, e i soldi lì, questo costa, Gli ho chiesto, gli fa, guarda che ti sono avanzati 20 euro dalla storia dei lamponi. Ti fa anche i conti in tasca. Comunque è comodo, un ragioniere. Poi fa: scendi in portineria, mi raccomando, dopo le 9 di sera. con cemento e cazzuola. Sì. E devi murare la porta dell'appartamento del custode, no? Ma questo qua è lo stesso portinaio a cui tu svuoti i barattoli di pece sul pavimento per fargli dispetto. Ma allora non dirmi che è stato spiacevole, scusa, fare, murarlo ti vivo. Fa fare delle cose, no, delle cose che ti piacciono. A parte che murarli vivi. Perché c'era anche la moglie, no? Ah, tutte e due. No, guardate che è stata un'esperienza terrificante. Per loro. No, compiere un gesto così crudele? Sì, sì. Mi ha segnato, eh. Vabbè, e poi anche faticoso, fare un muro. Ma cosa è successo poi? Vabbè, poi sono arrivati i carabinieri. Vabbè, per forza. Sì, ma tutto a posto per me. Io sono minore. Quindi se la sono presa con mio padre, no? Che lui è responsabile. Fai lei il padre? Lui... insomma, l'incuore ha detto, sì. Ma allora, venga con noi. Quindi tutto a posto, insomma. Lui adesso è agli arresti domiciliari, no? In attesa del processo. Vabbè, sempre, è un po' abituato. La famiglia è sempre lì. La famiglia. Vabbè, adesso, quindi, voci adesso, basta. Hai murato vivo il portinaio, la moglie, boh, le voci. Praticamente, gli arresti. Da un giorno all'altro. Sì, lo shock. Shock. È stato uno shock. Io adesso sento solo le voci di mio padre e di mia madre, no? Che mi insultano. Che sono vere. Soprattutto mio padre, perché agli arresti domiciliari. È tutto il giorno. Causa mia, dice lui. Sempre lì. Si rompe anche. Quindi mi insultano e mi riempiono di giornalate. Vabbè, ci credo. Giornalate. Scusa, tu li cacci sempre nei guai per forza le giornalate. Vabbè, ma sono un bambino. Sono un bambino, no? Sono sì, bambino, vabbè, no? Ho capito. Quindi? E quindi niente, mi becco le botte e sto zitto. Ma bravo, le giornalate con i giornali arrotolati. Arrotolati, sì, sullo scotch da pacco, anche diventano dei bei. E anche bagnati. No, prima bagnati. Ecco, vedi. Lo sapevo. Appunto. Vabbè, dai, bambino Alberto. Vabbè, consolati con l'amore, guarda. Per noi che sentiamo le voci, purtroppo è così. Devi consolarti con l'amore. L'amore. Quale amore? L'amore è l'amore del tuo amico Joris, per esempio. No, allora, cosa no? Io lo sapevo che partiva... Cosa? Il tormentone. Allora, se vi riferite a quella canzone, quella canzone, Asilo d'Amore. C'è un equivoco potenziale di fondo che mi piacerebbe chiarire. Lo chiariamo dopo. Intanto sentiamo Joris, dai, che ci mette tutta la passione, tutto il suo cuore napoletano. Appunto, e dopo troppo tardi. Wah! Oh! grande suonatore di kazoo del mondo, è qui con noi oggi, per questo assolo che rimarrà nella storia della radio, come resteranno nella storia della radio i vostri videi, che in quanto videi hanno molto a che fare con la storia della radio, che pubblicherete traendo spunto dalle canzoni del bambino Alberto, che trovate su YouTube, su Facebook e su tutti i social network, perché noi siamo Up to Date, noi siamo Chiedo Asilo at radio24.it. Sono un po' l'Hendrix del kazoo, cosa dici? Sì. L'Hendrix del kazoo, proprio te lo dici da solo.